Parola importante, il lavoro, Paola. Lavoro e ovviamente si avvicina, cioè il 25 aprile uno scende in piazza, ma sa che non tira il respiro perché poi c'è il primo maggio. Perché poi arriva il primo maggio e quindi a parlarci di primo maggio c'è la rete Primaggia. Angelo di Primaggia, si chiamerà così questa manifestazione. Angelo, quello è tuo... quest'anno. A te e grazie. Buon 25 aprile a tutti, a tutti. Intanto vorrei dire prima di tutto una cosa, vorrei dire a chi sostiene che mentre si impara a lavorare si può anche non essere pagati, che può andarsene a fanculo. Perché pochi mesi fa alcuni dei ragazzi in alternanza scuola Borghese, vaffanculo, Borghese. Ah Martina, ciao, sono riuscito a intercettarti adesso sei scesa dal palco, bene. Ti vedevo, eravamo qua da parte a noi, ma stavi ripassando, quindi non ti abbiamo disturbata. Sì, grazie, volevo scrivere due parole, almeno per ricordarmi tutti i motivi per cui si combatte. Allora, innanzitutto grazie di essere intervenuta e soprattutto grazie di averci ricordato che il 25 aprile non è una cosa, una memoria di una cosa passata, ma una cosa attuale e che ci ricorda di combattere tutti i tipi di fascismo e tutti i tipi di violenza in qualche maniera. Esatto, semplicemente è importante ricordare che questa non è davvero non è una ricorrenza, perché la lotta è ancora viva, è ancora quotidiana. Necessaria, è quotidiana, un sistema violento e fascista lo viviamo ancora oggi. Noi nello specifico come Fridays for Future ci riferiamo alla violenza della crisi climatica e di chi la causa, quindi per esempio del mercato dei combustibili fossili, ma non solo. E quindi bisogna ricordarsi questo, bisogna ricordarsi anche per esempio della lotta transfemminista in una giornata come oggi. Tutte lotte che sono in qualche maniera racchiuse nella lotta nel... Esatto, al fascismo si risponde con un'ottica intersezionale. Invece volevo chiederti, per quanto riguarda, parliamo delle tematiche ambientali su cui voi dei Fridays siete piuttosto attivi, come lo si combatte? Come si combatte la violenza di un sistema capitalista che vuole mantenere lo status quo della... Beh, innanzitutto non bisogna arrendersi alle continue brutture e ai continui danni che la nostra classe politica continua a fare, non bisogna arrendersi al greenwashing e alla penetrazione del sistema e delle aziende fossili in tutti gli ambiti della vita e della cultura, parliamo già per esempio di Eni al primo maggio, ma di tante altre ripercussioni che questo sistema di copertura dello sfruttamento fossile fa. E bisogna anche soprattutto ricordarsi di essere non solo solidali ma giusti. Non è più una questione di solidarietà con i popoli sfruttati, ma è una questione di giustizia, è una questione di passare il microfono, è una questione di ricordarsi che la lotta si fa insieme. Anche perché le conseguenze più gravi iniziano a pagarle prima loro di noi. Esatto, loro le stanno già pagando, noi in realtà anche le stiamo già pagando, ovvio che non ce ne rendiamo conto, ma sì. Chi sta meglio non lo sente, però a Catania l'hanno sentito quest'autunno, lo sentono durante le grandinate che distruggono i raccolti, lo sentono nelle grandi tempeste, ovvio nei paesi più colpiti dalla crisi climatica appunto le conseguenze sono più forti e il paradosso è che loro non l'hanno causata. E ricordiamo anche che la crisi climatica è una crisi di classe, che ci piaccia o meno, la crisi climatica, dicevo, è una crisi di classe. Esatto, è una crisi di classe perché chiaramente c'è chi se lo potrà permettere la risposta e chi no. Quindi per esempio in una città come Milano, che è la città più diseguale d'Italia, dobbiamo ricordarci che effetti hanno politiche che continuano a gentrificare la città e a spingere le fasce meno ricche alle periferie, dove ci sono meno strutture pronte a creare dei sistemi di adattamento alle conseguenze della crisi. Ricordiamoci che fa parte dello stesso sistema, che fa parte e che smantellare questo tipo di politica fa parte della risposta alla crisi climatica. Martina, ti ringrazio e niente. Io ti invito quando vuoi venire a parlarne in ZAM, noi siamo sempre aperti. Grazie mille, ciao. la testa presa come prima, pure dopo i 18 legalizza la guida, salto bigotto, cambio giubbotto, cambio stagione, sono cambiato un botto di botto, però fra ancora ricordo quando stavamo a sesto piano, stretto per starci qua, state faceva caldo, mio padre dormiva in terra, su cazzo, sono fuso da tre sere, non mi ci vedo morto per amore, non ci penso, ho paura di morire, però meglio morto che per amore, che vita passi, mentre aspetti di trovare Zaio, proprio sotto i piedi, se non ti senti bene perché non rimedi, perché non ti ribelli, ti lamenti e passami, mi chiedo che vita faccio, mentre spero di fumarmi l'ansia, eliminare i problemi, fare i soldi veri, sette zeri, foto al 20, 20, sì, nuovo bene, yeah. Beh, con Nico e Pivonello, un amico e 10 fratelli, col cazzo non sei dal gruppo, ti balzo, sì, il nuovo 2020, scommetti vi faccio contenti, che aspettate i prossimi pezzi come te, yeah, yeah, yeah. Mi 4 Z, tu mi chiedi come fa, nuovo pezzo che nel gel, ma sentirlo, dillo a tutta la città, a tua mamma, a tuo papà, io non solo contro te, tu da solo senza gang, fammi un fischio. Sono già sotto il tuo disco, fa schifo la Maria, io non esco, anche io lo penso spesso, poi esco lo stesso, mi chiedo che effetto fa ritornare a casa presto, sono fuso da tre sere, non mi ci vedo morto per amore, non ci penso, ho paura di morire, però meglio morto che carabinieri, che vita passi, mentre aspetti di trovare Zaio, se non ti senti bene perché non rimedi, perché non ti ribelli, ti lamenti e basta, mi chiedo che vita faccio, mentre spero di fumarmi l'ansia, eliminare i problemi, fare i soldi veri, sette zeri, fatto al 20-20, sì, no, baby, yo, allora siamo carichi. Oh, ma saltiamo un po', Milano, no! Saltiamo un po', dai! Find the engineer. Ok! Oh! Mille codici a barre, qui tutto il negozio. Io non abbasso il prezzo. Si capisce già l'aria che tira adesso. Appena passato, presto. 12 barre sul setto nasale. 4 minuti per tutta la vita. Tieni lassù, come una giga. Giocavo nel fango, un'infanzia al farina e la madurina. Il mio fuga faccia la città. La città che non va di moda, ma basta che stringa. Non invita. Bella sopra la micchia, la scritta sugli spam. Quando andavo in prima, c'era già cantieri dell'M4. Ma hanno fatto prima la lilla tra i precari. Fumo un attimo anche i paesi che stanno spaccando e stanno creando un vero e proprio pogo sotto il palco. I giovani antifascisti, i giovani milanesi stanno partecipando molto intensamente a questo concerto, ma sono qua con Angelo della rete Primaggio. Esatto, e stai organizzando la manifestazione del primo maggio. Sì. Il corteo qua di Milano? Sì, il corteo partirà da Darsena alle ore 15. Bravo, quindi il primo maggio in Darsena alle ore 15, parlacene. Abbiamo deciso di rispondere alla data internazionale lanciata dalle femministe russe all'urlo Strike the War, perché riteniamo da una parte che il problema della guerra tocchi tutte e tutti, e dall'altra pensiamo di meritarci di riprenderci la scena del primo maggio, dopo che precarie e precari durante la pandemia sono stati chiamati eroi e poi sono tornati subito invisibili. Vogliamo riportare al centro del primo maggio e poi dell'agenda politica parole d'ordine come salario minimo, reddito universale, di autodeterminazione, chiediamo più sicurezza sul lavoro, il permesso di soggiorno europeo, case per tutte e tutti, e poi taglio della spesa militare, più salute, magari a favore di uno stato sociale, no? Che sembrava sì. Piangessimo miseria, non avevamo i soldi eccetera, poi quando sono serviti diciamo per riarmarsi e per fare la non differenza, perché se noi raddoppiamo e triplichiamo le armi che abbiamo in casa sinceramente non ci cambia differenza, ma probabilmente se raddoppiamo quello che è il numero degli infermieri o in generale la spesa per lo stato sociale sicuramente se ne sente differenza. Esattamente così, i soldi ci sono, ma servono soltanto per fare gli affari delle imprese, delle multinazionali, e non per coloro invece che hanno pagato di più, hanno fatto più le spese e rischiano di fare le spese dell'ennesima crisi che l'economia della guerra sta portando anche nel nostro paese. Cornuti e marziati. Sì, però come sempre non molliamo, lottiamo, resistiamo e ci organizziamo, e prima già serve non soltanto per celebrare la festa post pandemica che ci meritiamo come rituale di esorcizzazione e catarsi collettiva, ma anche perché è ora di ritornare a organizzarci tutti insieme, prima a livello cittadino e poi chissà a livello europeo e globale. Angelo, ti ringrazio, buon 25 aprile. Buon 25 aprile, ci vediamo il primo maggio. Ci vediamo il primo maggio. Generazione triste ma ricoperta, sono più bravo a rappare che a fare criminale, ma di questo vuole se non vieni con le mamme, ehi. uno contro uno, muso duro come i cani, non i betti. Si odiano gli accenti, sono i primi fami aci. Anzi, 13, 12, non hanno ucciso solo cucchi, non sono stereotipi. Poi c'è Trump con i suoi ideali giusti. I spiriti uccidono gli antichi, sono i terroristi. Okay. Ed è per questo che io e Jimmy siamo nello spazio. Siamo con l'universo. La terra ci sta sul cazzo. Sembriamo umani, ma siamo tutt'altro. Episodi tali prima di essere fatto ok. Giovane genio, ti spiego solo una volta e non mi ripeto. Paganini scemo, paga i dindi al completo. Voglio un concerto pieno, non prendere più la metro. Voglio il disco d'oro per Stillovo. Soldi nel cassetto. Giovane genio, ti ho detto che sono meglio di tutti quelli che emergono adesso. Non lo dico perché questo è fatto per metà di ego, ma perché non sono fatto il momento e lo sto nel tempo ok. Ballo col diavolo, c'ho il passo più svelto, ma è tradito un fratello. Per questo non sono dentro. Io cucino Jimmy, cucina con me bro, non con te. Perché non sei al mio livello. Ballo col diavolo, c'ho il passo più svelto, ma è tradito un fratello. Per questo non sono dentro. Io cucino Jimmy, cucina con me bro, non con te. Perché non sei al mio livello. Oh, una mano su, dai su. Siamo? Allora, voglio sentirvi gridare al 3, 1, 2, 3! Yo, allora, dico Milano, siete caldi? Rispondete Antifa, Milano! Tifa! Milano! Tifa! Se dico Milano, rispondete Antifa! Milano! Milano! Milano! Milano! Ok? Dai, ne facciamo un'altra. Oh. O altre due. Yo. La città dei soldi, Milano del business. La città dei morti, Milano ciuci. La città dei vizi che rischi la vita. Pesi fascisti, Milano antifa. La Madonnina, la città che ti fa. La tipa che tira, la droga che gira. La Madonnina, la città che ti fa. La tipa che tira, la droga che gira. Gli universitari, i proletari. Tra gli immigrati come mio papà. I tax e i palazzi, passi strappati. Il pischello, c'è che oggi li dico a Milano, ma non sono zero. Sono Sebastiano, aspetta solo il giorno in cui fanno il globo tutto d'oro. Milano comando urbanciato, città del peccato. E che è il capitale del rap italiano. Il pischio e la droga ce l'ha già nel naso. Bravo! Tra che bella gente che trovi dalle mie parti. Abbatti dalla nebbia di condensa e sbatti. La vita della città ci rende degli schiavi. Il cuore vuota tempo perso che spatti. E se non vuoi andare a scuola, attento alle guardie. Prova a vendere grammi e collaterali. Prima vestivi bene, poi resti mutande. La campione con di mare. Ci sono 5 gradi, fra. La città dei morti, Milano ci uccide. La città dei vizi che rischi la. A pezzi fascisti, Milano antifa. La Madonnina, la città che ti fa. La tipa che tira, la droga che gira. La Madonnina, la città che ti fa. La tipa che tira. Tutti le legali, ma preferisco le panche, fra. La disco e gli sgami, ah. Per entrare non hai le. Ok, un po' di acquetta di nuovo per Bebe. Adesso un po' di casino per base, per favore. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutte antifascisti. Yo, andiamo all'ultima, dai ragazzi. Vai, ci siamo, siamo pronti. Fatemi un ultimo bordello per mio fratello Jimmy sul palco con me, per favore. Uno, due, tre. Hey! Yo, yo, le mani su, ok, ok, ok, ok, ok. E se dico Milano, mi rispondete antifa. Milano, Milano. E se dico Milano, rispondete antifa, Milano. Ho fatto una piana tatuata per la mia famiglia. Se non vuoi mi rappresenta, questa roba non è morta. Abbiamo sempre fame perché siamo nati in casa. Dimmi che provi la stessa cosa. Ho fatto sulla schiena tatuata per la mia famiglia. Se non vuoi mi rappresenta, questa roba non è morta. Abbiamo base non ce ne vorranno, gli sfumiamo un attimo, siamo qua con Alice, non una di meno. Alice, cosa ci dici? Allora, innanzitutto buon 25 aprile a tutte, tutti e tutto. Tutto. Che sia un giorno di liberazione e di lotta sempre per tutto, tutte e tutti. Oggi siete qua, intervenite come Rete Nulla di Meno, e quali sono i temi che portate al tavolo? Allora, i temi che portiamo al tavolo in questo momento ovviamente sono sempre innanzitutto essere contro sempre e comunque il patriarcato, primo. Secondo, questa è la cosa di base, in seconda battuta la giornata di oggi del 25 aprile ci porta comunque a fare delle riflessioni che abbiamo fatto anche nei mesi passati sulla guerra che sta avvenendo in Ucraina in questo momento e sulla nostra posizione, che è una posizione di pacifismo assoluto. No armi. No armi, assolutamente, né con la NATO né con Putin, no armi e pacifismo a tutti i costi, perché l'invio di armi crea violenza e questa è una guerra patriarcale e macista. Cosa, qualche giorno fa è stato paragonato anche l'attivismo, diciamo, alla resistenza, è stata paragonata la resistenza ucraina con la resistenza, beh, allora sono due cose abbastanza diverse ovviamente. Noi non vogliamo inerpicarci in questo tipo di discorsi, perché effettivamente la nostra posizione è proprio in realtà che questa guerra debba smettere, punto. Che poi ovviamente il popolo ucraino in questo momento si stia difendendo, un conto, ma diciamo che l'associazione tra la resistenza e i partigiani in Italia e invece la resistenza ucraina ha delle differenze. Un po' tirata per le orecchie, sì. Con questo ripetiamo, non siamo né con Putin né con la NATO. Una rete pacifista, e poi il 25 aprile è anche questo. Certo, certo, certo. Noi vabbè, vogliamo comunque continuare a mantenere, diciamo, l'attenzione alta su quello che sta succedendo comunque in Italia, a parte la guerra, che sono tantissimi femminicidi che di fatto stanno passando anche sotto traccia. Guardiamo anche numero, nel senso che, se non ricordo male, sono 3 femminicidi al giorno. Sono, sì, ogni 3 giorni. Ogni 3 giorni. No, 3 al giorno, mannaggia. Speriamo di non arrivarci mai. Forse 3 al giorno sono i morti sul lavoro, vabbè, ecco, un altro anche, numero da ricordare. No? E purtroppo continuano. In questo momento ci troviamo davanti anche al fenomeno non solo del femminicidio, ma anche dell'uccisione dei figli, che è una di quelle cose che sta avvenendo abbastanza di sovente, ecco. E poi come al solito abbiamo tutto il filone della salute pubblica e della sanità, che vieta ovviamente, vieta in questo momento del tutto ancora no, però rende molto molto difficile l'accesso ad esempio all'interruzione volontaria di gravidanza, piuttosto che altre 1500 problematiche. Oggi più che mai è una tematica attuale, se consideriamo la nuova legge proposta dalla Meloni, quella che è stata portata qualche giorno qualche giorno fa. Sì, io premetto che come Non Una di Meno non abbiamo mai discusso di GPA, quindi non ci possiamo esprimere su questo tema. Certo è che le spinte delle destre sono sempre più forti e sempre più capillari, e vanno sempre comunque a limitare di più e a mettere le mani sul corpo delle donne, che sia la guerra, che spesso e volentieri si fa anche sul corpo delle donne, possiamo vedere gli stupri che stanno avvenendo comunque in Ucraina, piuttosto che le leggi sulla sanità, le leggi sul lavoro, le differenze salariali eccetera eccetera. Certo. Al tavolo del 25 aprile c'è spazio anche per questo, ti ringrazio e ritorniamo in diretta dal palco. Va bene, buon 25 aprile a tutte, tutti e tutto. Buon 25 aprile. Grazie. Quanti sono i migranti e tutte le persone che vengono deportate e che vengono rimpatriate? Quanti migranti governi come la Gran Bretagna e la Danimarca vogliono deportare in Ruanda? Mentre noi siamo qui, Gran Bretagna e Danimarca stanno per attuare un piano di deportazione in Ruanda di richiedenti asilo, persone che chiedono protezione internazionale e che durante l'attesa della valutazione della loro richiesta asilo verranno rispediti in Ruanda. Delle grandi belle interviste questa sera, intercettato un sacco di bella gente. Viene facile stasera, siamo tutti qua i rappresentanti di quella che possiamo definire la società civile, quella vera, sono qua, sono presenti al palco del 25 aprile, sono qui stasera per e riesce a intercettarli benissimo, tra l'altro, appena cascano dal palco li porti tutti qua. Perfetto, direi. Comunque la serata procede, va avanti, un sacco di gente continua ad arrivare, è incredibile quello che sta succedendo qui questa sera. Effettivamente non mi ero reso conto che la vista d'occhio è sempre più pieno, probabilmente anche i ritardatari sono arrivati e adesso siamo sicuramente più di 1000. Assolutamente sì, poi il palco continua a essere gremito sempre di nuovi interventi e direi che possiamo continuare ad ascoltarli se ti va. Oltre alla privazione arbitraria della libertà che subiscono sulla propria pelle cittadini tunisini, e questo non è accettabile, non è accettabile il 25 aprile neanche tutti gli altri giorni, perché il governo italiano, l'Italia, il nostro popolo deve fare qualcosa, non è meno orribile degli altri governi. C'è da dire che noi finanziamo i lager libici, li finanziamo e li rispediamo indietro per non farli arrivare nelle nostre città e nelle nostre coste. Vivono... Ciao Fra, sei tunisino? Sei con noi allora e noi stiamo con te. Perché i lager libici che ci sono lì sono anche i CPR che sono in Italia e persone che fuggono alla ricerca della propria libertà sono costrette a vivere ai margini di queste e di molte altre città se non finiscono nei CPR. Una società liberticida alimentata da leggi migratorie e repressive, e questo non dobbiamo dimenticarlo. E neanche un conflitto sanguinario come quello che sta accadendo adesso in Ucraina, neanche una guerra a due porte dalla nostra Europa ha fatto sì che ci fosse un'inversione di rotta, perché anche tra i profughi di guerra si è stati in grado di fare distinzione tra profughi di serie A e profughi di serie B, per distinzione del colore della pelle, dell'appartenenza sociale e dell'etnia, e noi non sappiamo fino in fondo quello che sta capitando lì. Allora se neanche questo ci smuove, se neanche questo pone in essere un'inversione di rotta, ma come lo celebriamo sto 25 aprile, raga? Come? E dobbiamo essere coscienti, fare fronte comune, fare fronte compatto e cercare di combattere, ma anche di individuare il razzismo e il fascismo, non solo istituzionale ma anche quello quotidiano, perché quando l'indifferenza prende piede, quando ci rendiamo conto che non siamo tutti uguali, che non abbiamo tutti gli stessi diritti, è lì che viene meno, che vengono meno tutti i nostri valori dell'antifascismo, è lì che nascono i lager, come diceva Primo Levi, e noi questo lo dobbiamo ricordare oggi e sempre. Mai più lager, la resistenza contro il razzismo non si ferma e l'antifascismo non muore. Buon 25 aprile! Grazie alla rete Mai più lager no CPR. Grazie mille. Adesso perché... abbiamo una parola che sentiamo poco nella nostra quotidianità, ma che adesso dobbiamo mettere anche in atto, che è ascolto, perché abbiamo un brevissimo contributo sonoro soltanto, quindi sono dovete... 2 minuti e meno di un pezzo musicale per collegarci a una piazza antifascista che è quella di Firenze. Che è la piazza di Firenze, dove la Firenze antifascista lavora a stretto contatto con GKN, che è una fabbrica in lotta di cui abbiamo sentito molto parlare negli ultimi mesi. E lavorano in una convergenza politica delle lotte della loro città, della città, quindi non solo Milano come piazza antifascista ovviamente, ci sembrava importante collegarci anche con Firenze, dove il lavoro che fanno fondamentalmente costruisce un ponte di supporto e solidarietà, soprattutto in relazione alla repressione che le lotte antifasciste subiscono quotidianamente. 2 minuti di ascolto. Quindi se la regia è pronta, e credo che la regia sia pronta. Marti, ogni tanto cadiamo, cacchio. Ma credo che sia un down fisiologico, sì, dopo che in su 60 minuti vada in down. Ma noi prontamente siamo tornati on air. e questo ci fa bene perché ogni tanto stoppiamo la diretta e non facciamo dei file troppo giganti, esatto, poi da gestire, perché tutto questo poi sarà in podcast, immaginiamo, in maniera che in pillole magari riusciamo a estrapolare le interviste che abbiamo fatto e tutti i contenuti dal palco. Davvero molto interessanti, sì. Agli aspetti giudiziari, alle denunce. Rieccoci in diretta. Secondo me quello che sta succedendo, Marti, potrebbe essere una cosa reale, è che c'è talmente tanta gente che si riempie la cella e quindi non funziona più la nostra connessione Wi-Fi. Sì, oggettivamente è possibile perché ci butta fuori proprio. Vabbè, comunque siamo tornati, siamo ancora in diretta e vi rimettiamo il palco, questo bellissimo palco dei partigiani in ogni quartiere, 25 aprile, Milano, Famagosta. Scatenarci con un gruppo che su questo palco ne ha fatte, c'è cresciuto. È cresciuto con Pio Q, però prima di loro c'è un'altra parola che come sempre sale sul palco di Pio Q. La parola è transfemminismo. C'è una marea fucsia che dal 2016 ha inondato le piazze, le strade delle città di tutto il mondo. Non una di meno, grazie di essere qua, a voi la parola. Ciao a tutte, a tutti e a tutti, sono Arianna in Una di Meno e userò un femminile inclusivo per questo discorso. Lo scorso 8 marzo il nostro rifiuto incondizionato alla guerra è risuonato nello sciopero femminista e transfemminista di Una di Meno e nelle mobilitazioni sociali in ogni parte del mondo. La guerra è l'espressione più organizzata della violenza patriarcale. Sappiamo bene che gli stupri sono un'arma di guerra utilizzata sistematicamente. L'abuso sulle donne, l'invasione dei loro corpi attraverso lo stupro diventa simbolo di conquista militare, di un territorio e di sottomissione della popolazione. Sappiamo bene anche che la violenza sulle donne agisce non solo sui fronti di guerra, ma nelle case e in ogni ambito della società. Da anni scioperiamo e lottiamo contro la violenza maschile, di genere e dei generi e continueremo a farlo opponendoci alla guerra che le esaspera. Continuiamo con i nostri ospiti, la guerra abbiamo Suso, di Suso di Quartigiani in ogni quartiere. Suso, come sta andando? Ma ragazzi, secondo me è benissimo, è una piazza post-industriale anni 90, perché sembra di essere nella Berlino, capito? Bellissimo, underground. Ma è stupendo, c'è un sacco di energia, un sacco di gente, moltissimi giovani che devo dire, voglio dire, faccio parte di Pio Q da 15 anni e devo dire che mi mancava un po' questa energia giovane. Hanno appena suonato Base, che sono stati meravigliosi, coinvolgenti, veramente coinvolgenti, quindi vi devo dire che sono proprio entusiasta, molto molto contenta. Allora, noi prima abbiamo provato a inventarci qualche numero perché non sono mai stato molto bravo con le stime. Quante persone secondo te riusciamo a contare questa sera? Io sono peggio di te. Però allora mi sembra che è una piazza più piccola di quella dell'Arco della Pace, ovviamente. Se là ce ne stavano 5.000, qua 2.000? Possiamo dire così? Tu hai fatto un giro fuori, che io da le 6:30, 5:30 che siamo qua costrette a questo palco della diretta, non ho fatto un giro e... La mia, diciamo, visione è quella che ho in questo momento. Io prima ho azzardato un migliaio. Se tu che arrivi da dietro dici un paio di migliaia. Secondo me di più, sì, perché guarda che dietro sono tutti un po' più rarefatti, ma c'è un botto di gente. Perché lo spazio non è piccolo. È grande, cioè è grandissimo. Per cui secondo me ce n'è parecchia. Cioè, mi sembra che possa essere. Poi ai posteri la tua sentenza, ma vediamo. Non ascolteremo i dati della questura perché tanto diranno che siamo in 15. Esatto. Ma esatto. Siamo più di 15 sicuramente. Guarda, sì sì, sì sì. Beh, poi sentiremo anche loro, cioè secondo me un po' di gente che a Pio Q c'è stata sa perfettamente un po', no? Muoversi e capire se ce n'è tanta, se poi ce per n'è fortuna poco. Ci sono i social che in questo caso ci vengono utili e riusciamo a dare dimostrazione, una testimonianza diretta. Contenuti dal palco ne abbiamo avuti parecchi e raccontaci un po' il dietro le quinte di cosa vuol dire, di cosa aver organizzato questa 15ª edizione di Partigiani in ogni quartiere. Guarda, l'organizzazione come sempre capita negli ultimi momenti è febbrile, per cui oggi stamattina il cellulare era incandescente, cioè miliardi di casini, defezioni, mica defezioni, gente che si aggiunge all'ultimo. tutti sempre ben accetti. La pioggia e quella era la febbrilità di ieri, perché l'abbiamo deciso ieri. No, ma è meraviglioso, ti dà una botta. Mi arrabbio perché me l'hanno detto tipo stamattina tardi. Accidenti, noi l'abbiamo pensato ieri. Ma io non invece. Conto niente, quindi va bene che me l'abbiano detto anche l'ultimo momento per arrivare a fare la diretta. Comunque io ti devo dire la verità che sono molto contenta che si sia svolta qua invece che all'Arco della Pace, un po' per una questione proprio di ritorno quartiere. Alla periferia. Bravo. Sta. Cioè ci non sta. Segnala anche questo. Ma ti dirò, ne parlavo prima con Martina e eravamo un po' preoccupati che pensavamo che la periferia scomoda, brutta, eccetera, eccetera, avrebbe in qualche maniera, diciamo, inibito un po' la partecipazione. In realtà no, è quasi più bello vedere tutta questa gente qua. Esatto, perché è più facile, Federico, andare all'Arco della Pace, capito? Cioè è bello, tutto bello. Vieni qua, vuol dire proprio che c'hai voglia di venire qua, vuol dire che per questo. Sì, c'è un'energia proprio bella. All'Arco della Pace ci passi, quindi non troppo, diciamola così. Sì, esatto. Non lo so, poi io devo dire che ho anche la sensazione che questo posto attiri di più i giovani. Cioè all'Arco della Pace ci va anche la come dire, un po' la figa. La Borghesotta. Bravo! Invece qua non ci viene la Borghesotta, quindi si è un po' scremato anche. Però qualche bella vecchiettina di quelle che mi ha. Per fortuna. No, certo. Però diciamo che sono le vecchiettine quelle che ci piacciono a noi. Quelle cioè. Hardcore, quelle col midollo da 25 aprile. Hai capito? Cioè si screma e c'è un pubblico migliore. Adesso, a me poi devo dire che sembra davvero che la quantità giovanile sia molto di più degli altri anni. Che ovviamente gli altri anni parliamo degli almeno anni delle 3 anni fa. Esatto, degli anni delle piazze, non. Però, e poi anche questa cosa, io sono entusiasta di essere tornata in piazza così, cioè anche il corteo è stato una cosa meravigliosa. Come è andato il corteo? Raccontacelo. Allora, è andato secondo me molto bene per la partecipazione, perché comunque c'era tantissima gente, addirittura noi eravamo nello spezzone di Milano contro la guerra, quindi alla fine coi centri, con l'ultima parte. Non ci siamo mossi fino alle 4:15, cioè dalle 2:30 fino alle 4. Cioè, capito? Fermi. Però bellissimo. Poi credo ci siano stati, io non ero in avanti, ma credo che ci siano stati purtroppo molti fischi. Sì, penso che abbiano fischiato Pagliarulo, che ha parlato il presidente dell'AMPI, che ha parlato dal palco. Quindi ci sono stati un po' di situazioni brutte, no? Perché cosa fischi? Altre situazioni brutte che ho visto proprio fisicamente io sono stati questi deficienti che andavano in giro con la bandiera della NATO, così. E queste cose, vabbè, ci sono, per cui verrà lì. Ma noi siamo nel 25 aprile, siamo inclusivi, accettiamo anche posizioni diverse dalla nostra, anche se effettivamente. Però sai, un po', capito? Soprattutto in questo momento, diciamo che esatto. La nostra posizione è molto ben diversa e differente. Io mi stupisco per i fischi a Pagliarulo e secondo me, non ti nascondo il fatto che, secondo me, tutti questi attacchi sono arrivati indiscriminatamente da destra a sinistra, abbiano creato un po' di confusione, diciamo. Certo. Magari tra i più giovani o tra chi purtroppo viene in qualche maniera influenzato dai media. Personalmente, come Federico, ma come Zam, siamo dalla parte dell'AMPI, oggi sempre e domani lo siamo sempre stati e dobbiamo in qualche maniera, come giovane, come generazione postuma, dobbiamo ringraziare le persone, i partigiani che si sono in qualche maniera, i partigiani, le staffette, eccetera, che si sono sacrificati in un periodo difficile per regalarci oggi la libertà di poter essere qua e raccontare una voce diversa dalla voce, diciamo, dei media classici che probabilmente oggi non ci vorrebbero qua e ci vorrebbero allineati a supportare l'invio di armi in una brutta guerra, esatto. Brutta guerra mediatica come quella che sta succedendo in queste ore. Sì. Va bene, grazie mille. Grazie a voi ragazzi per tutto quello che fate. Ciao Zam, siete mitici. Ti aspettiamo in radio. Volentieri. Hai già un titolo per la trasmissione? Allora, mi piacerebbe fare una trasmissione sui canti di lotta e resistenza. Ci sta, una trasmissione 25 aprile everyday. Ti piace? Sì. Va bene, ci sto anch'io, me la preparo. Grazie. Mettiamo ragazzi. Il palco, grazie a te. Ciao. CPR, tutti quelli che si sono esibiti e hanno parlato sul palco prima di noi, fate un po' di casino per loro al mio 3, 1, 2, 3! Ehi, hey. Yeah, yeah! Ci siamo sulle mani, oh! Qua dovrebbe essere già buono! Ehi, ehi! Check, check! Ti piace l'hip hop? Oh, oh, okay. Muoviamo un po' il culo. Check. Oh, ci siamo. E quando dico rap caverna voi mi dite posse. Rap caverna, rap caverna, rap caverna, rap caverna. Yeah, fate un po' di casino per voi ragazzi, siete bellissimi, bellissime. Aprile. Ok. Bella per partigiani in ogni quartiere, regà, fate un po' di casino. Uno, due, tre. Sulle mani. Abbiamo con noi DJ Libero alle macchine. Fate un po' di casino per costui. Oh ragazzi, adesso fate un po' di casino per voi che siete qua al mio 3, 1, 2, 3. Siamo felicissimi anche noi di essere qua ragazzi. Vi facciamo qualche pezzo. Oh ragazzi, il DJ non si muove finché non sente casino. Fate casino. But I wouldn't give a sucker for a punk from the rockin' down and down till I made it again. Everybody go. I said I go by the unforgettable name of the man they call the Master G. Well, my name is known all over the world by all the Fox ladies and the new girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts kicking into your toe. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they started doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, you're tearing. Raga, fate un po' di casino per tutti gli artisti che si sono esibiti finora. Uno, due, tre. Siamo apparecchiati bene stasera con due DJ ragazzi, campionatore. Voi ci siete? Oh. Poco selvaggio nel cerchio di fuoco, sono eccentrico, non poco, ti centri poco e niente in questo gioco. E fuoco a piena potenza dall'astronave madre, tra disastri per le strade, no a chi non sei indennare. Nervi e fior di pelle, ma la pelle è pelle ossa. Brucio carne come pelle, pellegrino, pelle rossa. Devo birre degli scout e mi scombino. Andamento discontinuo, metti il disco in discussione di continuo. È un fiume in piena che straripa tu. Stringi denti, noi senza stipendi carichi, ma questi carichi pendenti. Voi strapagati, strimpellate, straparlate. Io non cerco storie, strappalate, mi assaparate. Strappa la carne, se ferma carte. Vuoi fare il gangsta, molto socio, firma carte bollate. Nel carcere di bollate. Rabbia una bolla che scoppia, muove la colate. Notte, ci sarà tu di serata serrate. Non derrendo ancora 100 birre da scolare. Cambio il cavorale, il sistema cardiovascolare. Passa le tue sperle per farti crollare. Due parole ma tranquillo che non scendo nel particolare. E proteli prediti pre alle soglie di grato soglio. Pepre da cavallo nella cui bocca mi guardo bene dal guardare. E da guardare sto meglio, sto una meraviglia. Quando il parapiglia sparpaglia pare per via. Rap caverna posse la famiglia. Scene da grey del pitalago sanguisugo. Un sugo per i fan della panchiglia. Molinelle di monelli ti affonderanno sul fondale. Siamo tribù senza attributi con attributi da tabù. Tra le fronde della foresta siamo scimmie in testa con scimmie in testa. Non c'è due senza tresca, nessuno alzo fa la cresta. Siamo una squadra marcissimi dal buon palato. Brasati che bramano il tuo brasato. Le cornie dalle caro si baffi ma c'è chi tiene puzza sotto il naso. Pur col fatto che l'ho fatto tappato lì siamo a naso. Sarà di un patologico non può che essere patologico qui a pulsa. Il coltello della tua aggressato. Di ogni papione che strimpella li vedo e penso al tipo di talento che sta in cella, quindi tipo spot vita snella. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Mi chiamo Lara. E sei qua per? Sono qua per venire a sentire P.O.Q. Ah, P.O.Q. P.O.Q. Gran bella serata, eh? Gran bella serata, veramente strana. Strana? Perché bellissimo corteo dopo due anni. Sì, dopo due anni di fermo. E poi in questa situazione veramente underground, direi. Tra l'altro inaspettata, perché doveva essere all'Arco, poi alla fine ci siamo spostati qua ed è, in realtà è quasi meglio, no? In realtà ci sta molto dentro, sì. Molto meglio che non all'Arco, molto più vero. Veramente vero, sì, veramente vero. Con un po' di gas di scarico di troppo. Sì, forse. Devo dire che il profumo si sente, però dai, ci consoliamo con la birra, no? Ci consoliamo, sì sì. E poi sì sì, c'è assolutamente tanta partecipazione, assolutamente un gran bel pubblico. Poi devo dire che gli ospiti sul palco spaccano stasera, Spaccano, sì sì, io sono un po' vecchia, diciamo. ma no, ci sta. C'è tanto calore, ci sta alla grande. Va bene, grazie mille, goditi la serata. Grazie, ciao. Grazie. Stabilita. Quando dico rap caverna, voi mi dite posse. Rap caverna, rap caverna, rap caverna, rap caverna. DJ libero. Eccoci qui con Asia. Ciao Asia, aspetta che ti alzo un po' il microfono. Grazie. Cosa ci fai qua questa sera? Sono andata in corteo come tutti gli anni e sono venuta qua con i miei amici. Bella serata. Ci sta dentro stasera. Sei qua per qualcuno in particolare o ti stai godendo tutto il palco? No, tutto il palco, molto bello. Bene, sono contenta. Sei qua con Radio Zam, del collettivo Zam? Sì, sai dove sei? Sì. Ok, perfetto. E, bene, direi che questa sera c'è veramente un sacco di gente. Un sacco di gente. Molto più delle aspettative, perché poi non ci aspettavamo. Anche per il tempo e tutto. Esatto. Veramente di tutte le età. Bello per quello. Sì, alla grande proprio. Va bene, goditi la tua bellissima serata, grazie di essere passata qui da noi. Ciao. Certe sigle non si discute, non mi placca la fame e morde la mano che mi nutre. Certe sera buon del riso, mi sento un po' più scemo, ma perlomeno è sempre condiviso. Senti uno spino farò, c'ho già la vista in mano, vedo moro che so. Rolando marijuana, fumando marijuana. Senti uno spino farò, c'ho già la vista in mano, vedo moro che so. Rolando marijuana, fumando marijuana. Se la mattina l'alito che ti accarezza, non uso colluttori, è solamente un'apparenza. Fatto è che mi faccio un bon di ganja ghiaccio e menta, e ho l'occhietto spento che lo ammetto, faccio ammenda. Fumo un po', sposto via la tenda, cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. Con le mani in pasta ascolto pezzi di gran classe, lascio che la musica diffonda dalle casse. Rap caverna posse, situazione delicata, asciughiamo un altro spino che fumata prelibata. Non ti diamo alla giornata ma nemmeno in sbattimento, sento ciucileo, sono contento. Quando mi fumo una canna di mare, di qualità. Altra citazione d'altri tempi emerge rara, non voglio che qualcuno pensi male, ascolta e impara. Riesco discretamente a fare bene quel che faccio, ma anche è vero che sono scarso in molte cose, le tralascio. Faccio il rap e spesso faccio su, e come sangue misto vedo mille bolle blu. Sto divagando, ma come Marlon Brando, diventa irrifiutabile per chi mi sputa fango. Non faccio brutto, faccio stop e da spallo, senti una mia rima tipo testa di cavallo. Senti uno spino farò, c'ho già la mista in mano, vedi un po' come sto. Rolando marijuana, rolando marijuana. Senti uno spino farò, c'ho già la mista in mano, vedi un po' come sto. Rolando marijuana, rolando marijuana. Io con i miei frati e la rap caverna posse, abbiamo skill di super scan che dentro clave grosse. Pensiamo sigarette infette che ti fumi in solitudine, noi come rito ci passiamo in un ordinabile. Ma che strana la solita situazione italiana, venderò la spice che t'amano marijuana. Fume decine di cime con cime, nebbe decine di uccide, sta chimica fumata cinica che ti spacca la pile. Io vicino al tabacchino, compro cartine lunghe e filtri di carta ma senza scontrino. Mentre con banco e tabacco lo trovo al banco supermercato, invece verso mi sbatto, rischio di essere arrestato. C-A-B, in abiti civili, i veri uomini virili con paura di esserli, cacciando il THC con le automobili, alimentando così una guerra tra poveri. Senti uno spino farò, c'ho già la mia mano, vedi un po' come sto. Rolando marijuana, rolando marijuana. Senti uno spino farò, c'ho già la mia fuori casino se vi sta piacendo il mio 3, 1, 2, 3. Grazie raga. Ok. Racca verrà passo nel posto. Ci siamo? Cambiamo okay, il microfono, raga. Bro. Cambiamo il microfono. Ehi, ehi. Ehi, ehi. Oh, oh. Su, su, su, su, su, su, su, su, su. Quando dico rap caverna voi mi dite posse. Rap caverna. Rap caverna posse. Due mondi colori di sfumano. Io ne cerco la tempera per carpirne, capirne l'adattamento alla strazio che impera e divide gli umani in bestie solitaria in branco di compagnia. Ma che fa leggere sabbia e foglie di via. Io ho ancora per tra la protezza e la parvenza. Sì che del viaggio ho dovuto farne parvenza. In permanenza al mio confino, al confine delle vite di chi mi somiglia. Ho imparato a tenere chiusa la bocca per parlare un'altra lingua. Sempre la stessa musica sotto il disco solare. Solerei isolarmi per un interludio. Ormai più non mi illude, ma ho un amico e uno spino per restare calmino quando il sole va capolino. La luna fa capolino e mi solletica il canino. Ho i nervi provati dallo schifo, taglia troppo grossa. Cerco di vestire i miei panni migliori sotto stasera rossa. Il vento del cambiamento soffia sul lume umano quando scotta. Io voglio cogliere il tramonto che tra i monti sboccia. Su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, Si disse a quell'occhio il padellino, cuore fino mio ventricolo. Pericolo per i pensi e per il perimetro. La friademia non termina l'anomalia. Ma purtroppo è troppo nera, non torna a casa l'anima mia. Perdo lucidità tra lucidicità. Lucifero ci, Lucifero ci chiama dal di là. E tu non darti arie, devi scardinare. E parti da scardinare, ricorda che puoi farti male. I controllori che ci vogliono controllare. Siamo noi contro di voi da contrastare. Preghiere al contrario dal contraltare. Ho fatto un patto con il diavolo che non puoi contraltare. Fisso il labiale, parole che non concepisco. Preghiere sottovoce sotto il crocefisso. Cinque vendetta come il conte di Monte Cristo. Il problema a monte, al monte dove è morto Cristo. Su, yes, yes, yo. Vice libero. Grazie. Partigiani in ogni quartiere, fate casino se ci siete. Grazie. Quando io dico di libero, tu mi dici vice. Libero, libero, libero, vice. Libero, vice. Yes. Ok raga, siamo entrati negli anni 20 nel migliore dei modi. Cane mangia cane, non ti vuota la scodella, libertà di scelta. Sì, braccio padella, ma il proprio orto è sempre piccolo. Voglio essere cinico nel mio cipiando grande mentre sei nel palco. Fedora sta salendo sul palco per fare una diretta sul nostro Instagram, Radio Zammi Sud. È incredibile, è sul palco con i cantanti. Senza vergogna proprio. Grande Fedora. Non seguire l'aria che tira di chi vede un albero invece di un'area boschiva. Invece ci ipnotizza lì che sciaringa. Ora dopo per dire ce ne fotte una minchia. Sto nell'ombra senza Shikamaru. Associazioni libere, treno relativo, sto qui a confusare. Il mio bro che taglia testa e poi ti mangia testa. Per la tele, per la terra, come la tele. Il mondo ti potete ti fare. Taglia non cambia solo il canale che cambia il tele. Io non ho pianto di piantare piane. Non ho pianto quando perso di città. Tante fume, tante danze. Non mi sa nelle scarpe. Si vede canze. Saprono le danze senza un piano di battaglia. Ma con in mano una partita. E tu sei con compagna non combatti. Combatti anche i contanti. Noi alcolici scompassi dagli scomparti. C'è l'ho peccato. Non so il numero di avvocato. Ma se non voglio il numero del mio avvocato. Perché a frase voi da cattedra. Non mi sembra amico se mi lato. Quindi gatti si vuole. Senti dico silenzio degli stati. Massacro d'Afri. Pulizia etica tattica. Industria bellica sfama soldati a soldati. Succubi di soldi spara colpi di carri armati su corpi disarmati. Militare militare. Figlio infame che fama di comandare. Ma invece obbedisce perché non sarà ruote d'acciaio, la Madonna. Ok ragazzi, un po' di casino, gli altri, 1, 2, 3. Wow, siete bellissime, bellissime, bellissimo essere qui anche questo 25 aprile qui con voi tutte e tutti qua. Anche come gli anni scorsi all'Arco della Pace, anche qui a Famagosta, nei quartieri dove ci sono lotte quotidiane, anche fare l'hip hop per noi è una lotta, il cercare di espandere questa cultura al di là di quella che è la mercificazione, di quella che è l'industria, fare una cosa perché ci piace, quindi la prendiamo noi dal basso e la plasmiamo e la riplasmiamo. Quindi seguite Zami Pop Lab, Rap Caverna Posse sui vari social, Facebook, Instagram. Ehi, questo pezzo si chiama Bazooka Freestyle 1312, senti. Quando dico marmo, poi mi dite rain. Marmo, rain, marmo, rain. M.I. su Circonvalla a 1000 gradi Fahrenheit, no. Con l'anima dannata e suono dannata, RCP è come grappa barricata, flow, molotov, 1-3-1-2 lo slogan, fino che il collo si sloga, lo spigo te lo porto in alto ancora, pure se rimango senza broda, sono quello che dici che fotta questo, tanto faccio freddo e fuoco, lo spigo lo stop e si vede, si pompa il loco e il rap, poi chiama il pompiere, nuovo stile, ma mai sentito sto stile, antiproiettile, se le rime sono ogive, un pusher se le lettere sono palline, un fat cap se sono un tag, oggi, come ogni giorno scemo, su ste basi sputo veleno, lo suono da paura, ti richiude in quattro mura, a tu per tu con l'ultraterreno, con il cuore incamiciato sopra queste quattro parti, stronzo, sono quello che senti, poi infarti, chiamo il pronto soccorso se non sei ancora pronto al decollo. Pensato da se punk e zio, riscrivendo il destino come parche, questo manifesto è fisso in alto, pure sul muro del pianto. Dio, scrivo lettere in grassetto, che poi c'è chi le cerca col gessetto, fra sull'asfalto il corner esamina la sagoma, ma sono già al di là, al di 24 là. H da quando ne ho 24, sputo merda, questa è la faccenda, uccido sempre il foglio con la penna, reato e risolto, tre metri sottoterra, voce bazooka, ti salta la nuca, sono una mitraglia battistuta, ho il flow alcolico tipo... Comunque ragazzi, scusate se entro così di brutto in diretta, guardatevi le dirette Instagram perché vi rendete conto di quanta gente c'è, quanta bella gente c'è qui presente questa sera. Oggi Rap Caverna sta spaccando. Sì sì, ricordiamo anche il tag Radio Zami Sud. Radio Zami Sud. Radio Zami Sud per vedere le dirette Instagram che ormai sono stories, ma vi rendete conto di quanta gente c'è qua stasera in Famagosta. Una situazione super underground, come diceva Susi con noi, veramente Berlino anni 90. Assolutamente sì. 1993-24, puto merda sull'asfalto caldo. Su 1-3-1-2 raga. Quando dico Barona tu rispondi Antifa Barona, Antifa Barona, Antifa Barona, Antifa Barona, Antifa Barona, Antifa Barona, Antifa. Ci siamo o no? Guerrieri! Ma si sentiva? In generale che poi è tutta Barona sul palco, raga. Più o meno. Grosso modo, zona 6, zona 5. Vai, bravi. Cammino, non mi ispiro, mi reprimo ad ogni ispiro, ti ispiro, io non mi stimo, ma te ti schifo, non ammiro, non ammiro, provo rammarico, vivendo tacito, magico, solo quando non mi capacito, è tacito che sapro, che magico panico, quando è maturato, maturo, sapido, cuore arido, se trovo il panico, manco l'alcol adito, nel lato pratico, navigo, pavido, largo, sul cardo scarico, senza anime corse ed essere avide e deviate da pratiche sadiche, come camminare su colate lamiche, ma finché lo fanno tutti il bruciore sembra anche accettabile. Il tradimento va accettato con l'accetta, se non sfacciato facci vedere le tue sfaccettature, le dure lusi pure qualità, cosa si chiamano pure congetture, rette strutture, banalità, le tue paure per le diversità, e leggerai questo fiore della società. Fronda o passarà contro curie, tecniche sciuriche, nurite, enzi nomade, carafà, ombre lunghe, luci tirate, sguardi che cercano. Siamo qua con Alessandra, sì, quello è il tuo microfono, scusa non te l'ho dato. Ma me lo sono preso, eccoci qua. Come sta andando? Direi alla grande, no no, tu che dici? Ma a me sembra che ci sia il pienone. C'è il pienone che da qua dal retropalco si intravede, c'è una grande attenzione, notavamo prima dal palco, anche sugli interventi politici, grande ascolto da parte del pubblico, la gente adesso sta ballando, mi sembra che questo spostamento di location non abbia scalfito, anzi forse ha restituito a più ha rafforzato il valore della periferia. Sì, ma sì, sì. Prima con Suso stavamo parlando, secondo te, io ho fatto un giretto adesso mentre la Marti faceva un paio di interviste per approfittare un po' di capire, secondo te quanta gente c'è qua oggi? Addio, io sono scarsissima, centinaia, dai, 2000? 2 milioni? Facciamo 2000, 2000 ci potrebbero essere. Un paio di milioni è anche fieno. Per te. Beh, allora confermiamo le cifre, sono quelle che stanno girando. Confermiamo, poi la questura domani ci smentirà, come sempre. No, ne parliamo prima con Susi, la questura dirà 15. Però noi sappiamo che dobbiamo moltiplicare. Adesso sentiamo un po' i colleghi qua di Radio Pop, loro che ne sanno. Sicuramente avranno l'occhio più allenato del nostro, che cifre stanno dicendo, e vediamo un po' se concordiamo. E le avranno date sicuramente. Comunque grande serata, Famagosta, POQ. Bello, bravi, bravi. E grazie a voi ragazzi che state facendo un super lavoro. Ecco, hanno finito il rap, scappo sul palco. Vai in diretta. Vai, ciao. No, abbiamo finito, stiamo ancora in salute, abbiamo tutto il tempo. Siamo senza un piano di riserva, questo è come si chiama la canzone. 1, 3, 1, 2. Ok, dai. Allora raga, praticamente nell'ultimo anno sono usciti tipo 7 progetti della Rap Caverna. Praticamente in un momento in cui il timing è tutto, sponsorizzare la propria roba è straimportante, noi abbiamo fatto le cose a cazzo di cane e dopo tipo 3 anni che non usciva niente abbiamo fatto uscire 7 album di fila. Uno di Crew e tutti gli altri solisti, no? Questo non tanto per scelta, ma perché abbiamo sbabbionato. Ok, questo pezzo fa parte di uno di questi 1000 progetti. Si chiama Senza un piano di riserva. Sono tutti su YouTube. E su Spotify. E su Spotify. Yeah. Comunque siamo qua con Giradischi e Campionato, giusto per dire. Yeah. Giudico musica, mimica, attività ludica che porta all'unità. Stupido non è chi dubita, ma chi comunica sempre che non lo fa. Il nome è Cesar One, non è una novità. Tanti fa super rap, RCP lo fa. C'è chi nei testi non dice mai niente perché è concentrato sul flow. Sul flow, sul flow. Concetti profondi, ma quando li rap ogni volta fa un flow. Un flow, un flow. Sta roba la studia da un tot, non è mai soddisfatta. No, no, no, no. Ma è sempre strafatto e non capisco un cazzo. Vedo campioni che parlano un sacco e soltanto per vanità. Bla bla bla bla. Militanti sentirsene un sacco ma sono soltanto qua qua qua, qua. Parlano a chi lo sa, sono in sull'isola. Un trono burrasca nel mondo reale, la gente dirà qua qua. Cresciuto nell'era mass media, rimpiango i partiti di massa. Ci aspetto un futuro tragedia. Io canto da un pezzo ma non mi passa. Non sto mai fermo, le mani in pasta. Sacco di pane in frasca. Cerco il mio posto nel mondo, ho avuto la verità in tasca. Sacco di pane in frasca, cambia il palinsesto con un palintasto. Il mio frale incastro non mi cala in castro. Mi tocco come te che ti cade e passa. Perché fatti in mano metto sulla spalla un diavoletto, una canna sul divano letto, musica palla quando vado a letto. Lento piano frate la tiro su, come Renzo piano, la mente le dà gente con un certo grano, mentre tu ti butti giù dal terzo piano. Scendo piano piano terra, senza un piano di riserva, ma la mano piena d'erba, ma la vita quella bella. Tu che ti cibi di merda, ti fumi il cibi al posto dell'erba. Un segnale di fumo in taverna con i suoi comparista chiusi in caserma. E piedi in due scarpe sono entrambe Nike, capzini sfagliati. Sono... No, vabbè raga, ci siamo! Ecco i fatti! Sì, ok, ok. Allora, spogliati. La gente di zona non sa stare in fila perché stare in fila è calzini sbagliati. Ok raga, vabbè dai, ci siamo. Anche se non mi ricordavo il finale, fatemi un casino di incoraggiamento. Grazie. Porca troia. Non abbiamo sentito un cazzo. Fate un po' di casino al 3, 1, 2, 3. Ok. Grazie raga. Che in fondo non ce ne frega un cazzo, cioè. Dovevamo provare, non abbiamo provato. Non dobbiamo fumare, ma fumiamo. Non dobbiamo bere, ma beviamo. E siamo marci così e ci piace. Dai, cazzo. Gira. Ehi. Ehi, yo. Oh, oh, oh. E con chi parliamo stasera? Ma lo sapranno. Su, su. Yeah, yeah, yeah, yeah, ok, noi siamo Rap Caverna Posse e ogni tanto ci mettiamo a parlare con qualcosa di poco identificato. Tirate su una mano. Su una mano, solo una mano. Non due, solo una, mi raccomando. Quando fuori piove dentro sto meglio. Si versi ermetici rispecchiano il mio tempo. Sono lungo un fiume, sempre sul lato opposto. Una lama mi piega e scorga sangue se la tolgo. Da che parte sono stato? Giusto o sbagliato? Ho scelto l'altro lato. E non c'è soluzione per un peccatore. Non ho scelto io se piove, sempre sul bagnato. C'è un peso sopra il petto come l'incudine. Sto parlando a un fiume, si accendo quel lume. Questo fardello, sai fratello, pesa più della mia solitudine. Ho mille voci in testa, non te le racconto. Affronto nudo la tempesta, questo è il resoconto. Più stai male, più vuoi scavare. Io resto l'immenso di questo fiumare. Oh, su, su, oh, su, su, su. Su, sulle su, mani, sulle mani, su, le mani. Quando su, dico marmo, poi mi dite rain. Marmo, rain, marmo, rain. Su, su, su, su, su, su, su, su. Quando dico pulsar, voi rispondete un ragno. Pulsar. Io parlo col fiume. Non c'è bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, screzio, sfizio. Quando l'acqua arriva fino all'orlo del precipizio. Rituale di passaggio come il taglio del prepuzio. Nel momento più propizio, nel mistero della fede, questo è soltanto l'indizio. Parlavo con il fiume di suoi rivoli, dai miei simili. Non avevo stimoli, vedo la mia vita scorrere sotto ponti e cigoli. Come se non aspettassi altro che di finirla qui. Connettermi alla corrente, andare in tilt e perdere campo nei curicoli. Sotto i vostri ingaggiamento metropolitano, intercedere affinché possano strofandare nel pantano. Padano col pantalone immerso fino al costato come un battesimo pagano. Mentre affondano gli elementi pesanti fondiamo il marmo con l'uranio. Con Follet, nuovi pilastri della terra. Nuove colonne d'ercole, nuovo stretto di cibi di terra. Sotto noi la quiete, grilli, cascina bianca e deserta. Ma questa sera non ce la leviamo questa scoperta. Ok. Ok, questo pezzo si chiama Aurora, che è lo stesso nome di un collettivo antifa. E praticamente questo testo è stato scritto partendo da un testo scritto durante uno di questi, di queste assemblee. Abbiamo estrapolato un po' di parole chiave e ci abbiamo scritto un testo. Ok, Raga, ci stanno dicendo che dobbiamo tagliare la scaletta. Dobbiamo tagliarla? Ancora due pezzi, almeno due pezzi. Ok, ve la state accollando insieme a noi però, eh? Siamo in diretta, siamo qui con Manuela. Manuela, innanzitutto ti alzo il microfono così anche tu puoi dire la tua. Eccoci. Ciao. Manuela, come sta andando? Manuela di P.O.Q. Manu, P.O.Q. da tanti anni, dall'inizio, sta andando bene direi, abbiamo scelto questo luogo, viste le previsioni. Underground, Berlino anni 90. Abbiamo già ripetuto anche con Susi. Esatto, molto... Un posto che dà soddisfazione. Molto metropolitano, ha dato soddisfazione, una piazza totalmente al coperto, che quindi era la location che abbiamo scelto per questo. Ma sta piovendo fuori? Sta piovendo, quindi abbiamo avuto ragione. quindi sì, è stata un'ulteriore conferma di aver fatto la scelta giusta. Allora, stiamo dando il tot numeri da un po', nel senso che allora io sono fermo qui da qualche ora ormai, non ho ancora avuto una visione parziale perché sono andato a fare un giretto prima mentre lasciavo Martina fare qualche intervista. E secondo te quanta gente c'è qua? Oddio, io con i numeri veramente faccio schifo. Tipo 2000 persone. Beh, allora diciamo che siamo più o meno tutti allineati su questa cifra, che stiamo dando più o meno all'unisono. Ma non sono di più, perché io vedo sempre un sacco di facce nuove, vedo anche dei movimenti, delle correnti convettive che si muovono davanti e dietro il palco, sono veramente un sacco. Sì, continua ad arrivare gente in effetti. E panini ce ne sono ancora, perché un po' di tempo fa, qualche ora fa, è arrivato Gulli con un piattino di couscous e mi ha detto che i panini stavano per finire. Sì, allora ancora ce n'è, ho visto dare ancora cibo e birre, però la gente arriva, continua. Anche perché è presto, sono le 9:30. Esatto, il clou della serata ancora deve arrivare, i miei artisti preferiti. No, tutti bravissimi stasera. Però ancora delle cose molto belle che ci aspettano. Mr. Red, siamo un attimo, ok, siamo tornati on air, abbiamo il solito problema che ogni tanto la rete ci butta fuori, siamo tornati on air, dicevo che ci sono ancora tanti artisti in scaletta e che quindi la gente sta ancora arrivando, siamo ancora all'inizio. Rinfrescaci un po' la scaletta, che noi effettivamente come pessimo servizio pubblico non l'abbiamo data. Allora, intanto abbiamo ancora degli interventi politici sul palco che dovranno avvenire. Diceva prima Manuela che effettivamente la partecipazione stessa del pubblico è stata forte, attenta agli interventi, quindi diciamo che i giovani e la gente non sono qua solo per la musica bellissima e super coinvolgente, ma sono qua anche per i contenuti di questo palco. Assolutamente, infatti sì, c'è stata molta attenzione agli interventi che ci sono stati, ancora ci saranno le brigate solidarietà, insomma, che dovranno intervenire, e un gruppo sanità, l'ultima ruota, e gli studenti, il gruppo studenti, i lavoratori dello spettacolo con le loro istanze, questo per la parte politica, e ancora Renato Sarti, Virginia Zini con Chiara Stoppa, Mr. Red e DJ Ugly. Insomma, abbiamo ancora una bella serata. Una serata ancora in divenire. Rita Pelusio. Sì, ancora una serata tutta da, insomma, chi arriva adesso trova ancora un bel po' di cose da vedere, da sentire. E ricordiamo che andiamo avanti fino alle... Andiamo avanti sicuramente fino a mezzanotte con la musica. Diciamo a mezzanotte. Diciamo a mezzanotte, anche se poi sappiamo benissimo che si sforerà questa festa bellissima, la festa più bella dell'anno. Sì. Grazie mille. Grazie. Occhi negli occhi pure per ore ma senza vedersi. Resti in silenzio mentre rifletto le sue espressioni del volto. Come amicene, facce di bronzo messe sul viso del morto. La storia alla fine che ha vinto, non basta seguire l'istinto. Il risultato è pure scontato, lo vedi ma manco dipinto. Voglio vedere il potere gestito da te o da chi non ce l'ha. Voglio vedere i soldi riempire le tasche di chi non ce l'ha. Voglio vedere i diritti riempire le vite di chi non ce l'ha. Voglio vedere Salvini morire ammeccato nel Mediterraneo. Voglio vedere il potere gestito davvero da chi non ce l'ha. Voglio vedere sti soldi riempire le tasche di chi non ce li ha. Voglio vedere i diritti riempire le vite di chi non ce li ha. Voglio vedere Salvini morire ammeccato nel Mediterraneo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, piano, video musicali, io con l'acciaio, piano qui guardare. Non si può più parlare di classi, il mondo è cambiato, io non credo proprio. Non proprio. Io sogno i negozi coi saldi, telefono nuovo, io sogno l'esproprio. La porca per l'ultimo papa, interna dell'ultimo re. Si spera nel regno dei cieli, ma intanto giustizia sociale non c'è. Non c'è, non c'è. Per fare sta roba bisogna sporcarsi le mani. Sporcarsi le mani. Per fare sta roba Sovet possiede pannelli solari. In aria come aeroplani, zero confini, Yuri Gagari. Per sti scemi neobliberisti, Siberia colli come costali. Quindi qualcosa di romantico, Leningrado. Nazi alla conquista, morti sul selciato. Il tuo decoro, gabbia, sbarre, goro. Ho un flow che ti rapisce come Aldo Moro. Voglio vedere il potere gestito davvero da chi non ce l'ha. Voglio vedere i soldi riempire le tasche di chi non ce li ha. Voglio vedere i diritti riempire le vite di chi non ce li ha. Voglio vedere i soldini morire nel caso del meriterà. Voglio vedere il potere gestito davvero da chi non ce li ha. Voglio vedere i soldi riempire le tasche di chi non ce li ha. Voglio vedere i diritti riempire le vite di chi non ce li ha. Voglio vedere Salvini morire legato nel Mediterraneo. Siamo qui con Simone, Simone del coordinamento spettacolo Lombardia. Simone, oggi siete qui, sei qui come? Sono qui come lavoratore dello spettacolo, come organizzatore, collaboratore del collettivo POQ, e sono qui per leggere una lettera scritta dai lavoratori dello spettacolo per raccontare la situazione di questi ultimi due anni e il punto in cui ci troviamo da un punto di vista legislativo. Nel senso, dopo due anni di Covid, com'è cambiata la situazione? No, siamo in attesa di una legge, siamo in attesa di una legge dal 1949. Quello che è successo in questi due anni è che 55.000 tra colleghe e colleghe hanno dovuto cambiare mestiere e che ci stiamo battendo a sprombattuto per avere un riconoscimento di indennità che ci venga riconosciuto dal Ministero e dal Governo, e tutto questo è ancora fermo dopo due anni di proposte di lavoro. Bene, quindi sul palco del Partigiano del Quartiere il 25 aprile c'è spazio anche per questo tipo di, neanche più protesta, come la chiamiamo, come la definiamo? Una rivendicazione dei diritti fondamentali. Beh sì, si parla di diritti e tutele, c'è poco da rivendicare, qui siamo ancora prima della rivendicazione, è qualcosa che, non, che manca, siamo ancora in un medioevo da un punto di vista di diritti del lavoro e ci stiamo battendo per questo. Bene, bene, ti ringrazio, grazie, diamo voce al palco e aspettiamo il tuo intervento. Grazie. Buona serata e buon 25 aprile. A te, a te. Sono nate le brigate di solidarietà, quindi solidarietà, cura, comunità, mutuo aiuto. Queste sono le parole, le loro che si portano dietro loro. Lasciamogli la parola. Brigata solidarietà, venite, venite, se venite. Se ritroviamo dei microfoni, perché i Rap Caverna Posse li hanno portati ovunque, qua ce n'è uno da districare. Forse ne basta uno, Ale. Districhiamo di qua, parli solo tu, uno è sufficiente. Però lui comunque li districa perché li deve rimettere sulle aste. A voi la parola, ragazzi. Ciao a tutti, spero che si sente. Come va? Buon 25 aprile a tutti. Allora adesso facciamo un breve intervento. Siamo di Gretto Soglio autogestita, GTA. Interveniamo. Grazie. Riportando l'esperienza che abbiamo fatto con la Brigata Popolare di solidarietà a Milano Sud, che abbiamo fatto insieme ai compagni di ZAM. Ringraziamo per aver costruito, compagni ZAM, questa iniziativa, averci dato spazio per intervenire. Finalmente qualcuno che ci riconosce. Abbiamo iniziato questa esperienza fin da marzo del 2020 e ci siamo attivati in questo progetto appunto con Emergency. Gulli, capiti a pennello, Brigata di solidarietà popolare Milano Sud. Sto dicendo, arrivi capiti a pennello, finalmente qualcuno che riconosce il nostro intervento di... L'intervento di ZAM. Ci stanno chiamando di là? Stanno chiamando di là. Allora è destino. Andiamo, no, non vogliamo. Andiamo. È il nostro tempo, allora. Vai, tira su questo qua. Nessuno di noi in bicicletta, non c'è incazzato. Per favore, siamo 0 su 3. Tu sei ancora a piedi? Come... Sì. Gattuso, ci pensi tu? Sì, no, certo, l'unico problema è la macchina è distante, quest'acqua. No, ma io posso andare in metro, eh? Vabbè, ne parliamo dopo, ne adesso parliamo, non è interessante sapere come torno a casa. In un secondo momento, perché vogliamo prenderci qualche minuto per ospitare Federico a rappresentanza dai colleghi. Conquilini. Dai colleghi di Radio ZAM che stanno trasmettendo dall'inizio di Partigiani Non il Quartiere, esattamente come noi, però in streaming, e qui vogliamo chiedere almeno un paio di cose su Zam e Radio Zam. Benvenuto, buon 25 aprile Federico. Ciao ragazzi, buon 25 aprile a voi. Beh, innanzitutto, prima della professione, prima della radio, prima di tutto quanto, che 25 aprile è stato per te dopo 2 anni di pandemia? Beh, sono contento finalmente di riuscire a ritrovare in piazza tanto entusiasmo e tanta bella gente che probabilmente come me aveva voglia di venire a manifestare un antifascismo di cui secondo me, secondo noi di ZAM ce n'è bisogno. Ce n'è bisogno di far sentire che non siamo tutti allineati e non siamo tutti a pensarla nella maniera violenta in questo, come viene rappresentato in questi momenti, con il supporto alla guerra, l'invio delle armi, queste cose. Il 25 aprile per noi è anche questo, e quest'anno rappresenta molto la nostra posizione di pacifismo. Anche secondo te c'era più gente del solito quest'anno? È stata secondo te un'impressione dovuta al vuoto dei 2 anni passati? Ma sai che anch'io di là provavo a intervistare un po' dei amici e colleghi di Partigiani Non il Quartiere, stiamo provando a dare dei numeri, noi stiamo dando una cifra intorno alle 2000 persone, però io non ho tanta esperienza e chiedevo a voi, che sicuramente avete un occhio più allenato del nostro, Chini fa questo per professione. Sì, io conto le persone, e quindi bravo, sei stato molto vicino con la tua valutazione. Senti Federico, intanto prima di chiederti di Radio ZAM, forse ti ha più senso chiederti di farti portavoce in questo momento e descrivere ai nostri ascoltatori qual è la realtà di ZAM a oggi nel 2022. Oddio, non so neanche se ne sono in grado. Io in realtà sono entrato in ZAM qualche tempo fa, sono entrato in ZAM tramite la radio, e per me ZAM ha rappresentato una carta bianca, nel senso uno spazio in cui mi sono presentato con un'idea bozzata di progetto radiofonico che è stata ben accolta e con un sacco di entusiasmo, e ZAM rappresenta questo. ZAM rappresenta uno spazio, un collettivo di persone, uno spazio occupato in cui accogliamo le idee e vogliamo in qualche maniera rappresentare anche una sorta di, non dico dissenso, una proposta differente da quello che è la cultura capitalista, la cultura del fare le cose per i soldi. Noi in ZAM facciamo le cose perché ci piace farle succedere, ci piace insomma riunirci e fare cose. Dov'è ZAM in questo momento? ZAM si trova a Milano Sud, in zona Via dei Mille. Siamo in uno spazio occupato che era un ex come si chiama? Un caserma dei carabinieri, della polizia locale, commissariato. Vabbè, avete detto se occupiamo bene. Se occupiamo facciamo la grande, sto cazzo. Ma la cosa volevo portare questa, diciamo, testimonianza. ZAM è uno spazio innanzitutto bello, ok? E quindi anche il fatto di andare un po' a raccontare una narrativa differente, che non è il centro sociale occupato, un posto diciamo fatiscente, puzzolente, brutto, in cui si va a perdere tempo. No, ZAM è uno spazio bello, intendo a livello estetico. Abbiamo un sacco di iniziative interessanti, abbiamo un collettivo teatrale, abbiamo l'acciaieria che è uno spazio dove fanno dei bouldering, una palestra bellissima, abbiamo la radio, veramente tanti, il corso di box, un sacco di attività anche legate allo sport, e quello che facciamo è cercare in qualche maniera di coinvolgere lo stesso quartiere e fare un po', ricostruire un suo strato sociale e accogliere. Allora, io do per scontato che se uno arriva e dice a ZAM ciao, voglio stare un po' con voi, capire come funziona, basta quello per, come dire, per essere inclusivi. Basta il ciao. Esattamente, basta il ciao. Senza ciao. Bisogno di dire riferimenti internet, il sito ciao. Web, eccetera, eccetera. Spieghiamo il ciao. Presentatevi. Non inteso come motorino. Questa roba la capiamo solo io e te. No, la capisco anch'io. Che c'entra. Anche il grillo. Esatto. Detto questo, invece hai citato Radio ZAM, con il quale state trasmettendo in streaming. Che tipo di radio avete in mente? Che tipo di contenuti proponete? Allora, innanzitutto, come dicevo, la radio è uno dei tanti progetti di ZAM. Radio ZAM quando? oddio, più di 10 anni fa, noi siamo occupati da più di loro sono, perché io effettivamente, come dicevo, lo frequento da poco. ZAM come realtà è occupata da 10 anni e Radio ZAM nel particolare è un contenitore in cui veramente proponiamo contenuti in qualche maniera politici, in qualche maniera ambientalisti, ma non solo, nel senso abbiamo delle trasmissioni un po' più divulgative con Università alla Radio, ma abbiamo anche trasmissioni che provano perlomeno ad essere divertenti. E poi ve lo dico lì combattuti, come se qualche ascoltatore di Radio Popolare non contento vuole passare dalla nostra parte. Noi siamo... Aspetta, ha già detto la parte, perché io sto per ascoltando il palco in attesa di Renato Sarti. Sì. La sedia serve a chi? No, dagli pure il microfono, scusami. La sedia serve a Potron per suonare. Hai capito? Gli stanno portando via la sedia al nostro ospite. Non vorrei mai. Figurati. Adesso ne sono due. Va bene, ce la facciamo. L'ha restituita. C'è Renato Sarti sul palco, sta per iniziare il suo pezzo tratto da Nome di battaglia Lia. Comunque allora va bene, allora loro dicono le robe che noi non diciamo, che non potete dire. Che non potete, ma loro si prendono la maglietta di Radio Popolare. Okay. Loro se la prendono, però la mettono, va bene. La mettiamo in radio. Andata. Dai. Lasciamo la linea al palco. Grazie Federico, complimenti a Zamp. Per pochi di voi che non lo sanno, il Teatro Cooperativa nasce in quel di Niguarda. Che brava, è mia nipote, no non è vero, nasce a Niguarda, che Niguarda fu un quartiere che si liberò il 24 aprile, non il 25, ma ahimè quel giorno ci fu un evento tragico di cui ve ne parlerà adesso. Mi senti Maurizio? Rossana. Sì, io ti sento. Mi senti? Io sono sempre qui. Tu mi senti? Io ti sento. Felice di essere qui. Tutti sento, noi ci perché sentiamo. Siamo sempre venuti fin dalle prime edizioni di POC. Questi due pazzoletti, voi li conoscete. Questo allora, momento di panico. Si mette le cuffie Maurizio, Allora, abbiamo appena assistito alla fantastica intervista di Fede a Radio Popolare. Ma ora Fede intervista Maurizio e Pulsal from Zami Pop Lab. Ce la posso fare, anch'io senza voce, è tutto bellissimo, POQ 2022, fantastico. Sta piovendo a dirotto, sta veramente rovesciando l'acqua all'infinito, quindi meno male che siamo qui sotto. Fateci la tracklist che avete cantato stasera, via. In quei inferni totali. Dai, diteci la tracklist, dai. Vai, allora, questa sera abbiamo fatto varie tracce del nostro repertorio. Non barare, pezzo di merda, non barare. Del nostro repertorio, diciamo, classico di posse. Quindi eravamo in 4-5 sul palco ad alternarci ai microfoni. Quindi abbiamo cominciato con Coattitude, che è una delle nostre tracce più numerose dell'ultimo disco ufficiale che abbiamo fatto insieme, Sorvegliato Speciale in attesa di giudizio. Poi abbiamo continuato con un classicone, Cannabis Cannibals, per tutti gli smokers e le smokas della situazione, e continuando poi con classici del nuovo disco e con alcune tracce inedite nelle quali rientrava anche un nostro socio che è entrato recentemente nella crew, Marmorain, bella per il nostro marmo. E abbiamo rispolverato Aurora, una traccia della quale abbiamo fatto il nostro primo video in quarantena, ognuno riprendendosi col telefonino a casa, è stato mistico. E abbiamo chiuso con Dalla parte degli ultimi, che è una delle ultime nostre tracce che cercano di spingere maggiormente sulla questione della lotta, del sapersi schierare sempre con gli oppressi e mai con i carnefici. Raga, una domanda stupida, ma da dove, non mi sente, scusami, non sei in cuffia, da dove nasce questa voglia di fare musica, ma non solo fare musica, fare musica e attivismo, cioè nel senso grandi, come, perché? È una cosa complicata. Ognuno di noi si è avvicinato al laboratorio hip hop nel quale è nata la Rap Caverna Posse, sicuramente per una passione, tuttavia il fatto stesso di trovarsi in uno spazio sociale ha fatto sì che comunque molti di noi frequentassero dei percorsi paralleli attraverso i collettivi studenteschi, piuttosto che realtà che si occupano di politica nei territori, nelle periferie, ad esempio come la lotta per la casa. E quindi tutto questo ha creato un po' il, diciamo, il sotto Bosco, che poi abbiamo cercato di districare attraverso le nostre rime, i nostri pezzi. Ma quindi siete nati in ZAM? Possiamo dire che siete nati in ZAM? Sì, all'interno del centro sociale ZAM, appunto, è nato questo laboratorio ZAM Hip Hop Lab, che Gulli prima ci ha presentato come ZAM Hip Hop Lab. ZAM Hip Hop Lab è il laboratorio gratuito, autogestito, libero per tutti e per tutte. Quindi invitiamo chiunque a venire a partecipare al laboratorio Hip Hop, al laboratorio di ZAM. Sì. Da lì è nato appunto Rap Caverna Post, che è la cosa. Grandi, e come è stato per voi questo 25 aprile, al di là della musica? È stata una figata, siamo ritornati in quartiere, poi in Barona, noi siamo della Barona, situazione stra underground. Giocate in casa? Giochiamo in casa, quindi è un'emozione bella, poi ci sta a stare nei quartieri. Bellissimo. Ma non solo lui. Ma quindi il fatto di essere qui e non all'arco è un plus. Allora, diciamo che sicuramente la situazione dell'Arco della Pace ha anche un che di spettacolare, ogni volta è fantastico vedere una piazza riempirsi di gente. Tuttavia c'è da dire che trovarsi appunto nel nostro quartiere, quindi luoghi che visiti, che attraversiamo quotidianamente, ha un senso diverso vederli popolare da così tante persone diverse, di tutte le età, di tutte le provenienze. E allora, io ne ho fatto un'incursione sul vostro palco mentre cantavate, per provare a dare uno sguardo, non mi sono ancora riuscito a muovere da qua, e quindi ho una visione molto ristretta di quella che è la platea del pubblico. Ma secondo voi oggi quante persone ci sono? Dietro l'ospedale, che ci sono i prati, è più sicuro, non qua che ci sono. Ma così su due piedi direi un 350-400 persone. Ci si impiega lo stesso tempo, non sotto il palco, ragazzi, in tutta la piazza. Bisogna prendere anche la strada che ci serve di più, perché vedi, non ho bisogno di vedere, anche 1000, forse anche di più. Dici? Perché ne parlavamo prima con i colleghi di Radio Pop e un po' degli organizzatori, sembra che siamo intorno a un paio di migliaia. E intanto arrivano i camion tedeschi e fascisti. Mi sembri un po' partigiani con loro quattro fucili. Disattento. Braccino. È vero che a un certo punto non guardiamo più il pubblico, quello che facciamo lo facciamo anche per sfogarci, per cercare di incanalare le nostre energie più grezze, il nostro carattere. E quindi non sempre stiamo troppo attenti a quello che è il pubblico, diciamo. Facciamo così, vai a fare un giro e torni con una numerica un po' più accurata. Esatto. Ritorniamo in diretta sul palco, ragazzi, grazie mille. E ricordiamo Rap Governo 99. E ringraziamo ancora ZAM. E quando volete venire in radio, ragazzi, siete sempre benvenuti. Va bene, grazie mille. Grazie mille, grazie a voi. Una donna alla finestra me la ricorderò, come vede che mi alzo, si fa il segno della croce e dice meno male, meno male, almen vena le salva. Ha capito che lei, allora devo correre a chiamare i compagni, no, per aiutarmi a cercare di tirarla su, ma mentre la tiriamo su, falciata proprio nel seno. Proprio nel seno, nel ventre. E dopo la portano dentro a casa di un compagno, a me mi danno le sue cose, io sto lì un po' con lei, ma cosa posso fare, insomma? E a me mi portano in via Ermadotto, a Niguarda, dove ci sono le compagne che hanno il caffè, perché hanno il caffè, lo fanno per me, che è rarissimo. È rarissimo il caffè, lo fanno solo per me. E c'è un profumo. Hanno sparato. Hanno ucciso la Lia.